se chiedi te. Con un pennello sopra i muri scritto avrei che cosa sei per me. Volevo dire per la strada a gente che non ride mai che sei diversa e che sei vera e che col tempo tu non cambierai. Ma tu non sei con me. Amore, amore, amore, amore, amore, amore no. Amore no. Amore, amore, amore, amore, amore, amore no. Amore no. Amore, amore, amore, amore, amore, non si può. Volevo una fotografia dove si vede che sei tu e tappezzare tutti i muri in ogni via per dire a tutti che eri mia. Ma ho solamente una canzone fatta di notte in un bordone mentre ti ho vista come un ladro andare via con lui da casa mia. Solamente una canzone fatta.